2024 di Enrico Pagliarini. Ed eccoci di nuovo insieme, bentornati a 2024, benvenuti se questa è per voi la prima volta, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, io sono Enrico Pagliarini, mi potete raggiungere scrivendo a 2024, scritto in cifra 2024, @radio24.it, oppure potete utilizzare anche Twitter o Facebook. Questa è la nostra prima puntata della nuova stagione del nostro programma. Iniziamo dalle notizie che sono arrivate in settimana da San Francisco. Today we have the biggest news in iPad since the iPad. Apple ha tenuto il suo tradizionale keynote di settembre con una presentazione durata più di 2 ore nella quale sono state presentate alcune novità. Nulla di dirompente, come dicono gli americani disruptive, ma sicuramente alcune nuove caratteristiche molto interessanti, a partire dal nuovo iPad, si chiama iPad Pro, che è molto più grande di quelli attuali, quasi 13 pollici, prendete un foglio A4, grosso modo quelle sono le dimensioni. Ha un processore da desktop, è un prodotto dedicato alla produttività, al mondo professionale, con 2 accessori, questa forse è una caratteristica spicca, proprio dedicati al mondo dei professionisti, una cover che diventa anche una tastiera e un pennino. Ci sono altri prodotti sul mercato simili a partire dal Surface, vedremo se il sistema, l'ecosistema di applicazioni e soprattutto anche gli accordi che Apple ha fatto con Cisco, con IBM per diffondere i propri prodotti nel mondo dei professionisti beneficeranno anche dell'arrivo di questo nuovo prodotto. Poi si è parlato di Apple TV. Apple TV, lo ricordiamo, è una piccola scatoletta che si collega al televisore, finora non ha avuto grandissima diffusione. La nuova idea di Apple per la TV è riassunta in queste parole di Tim Cook. We believe the future of television is apps. Crediamo che il futuro della TV siano le applicazioni. Infatti la nuova Apple TV ha un proprio sistema operativo sul quale si possono installare le app, le applicazioni come si fa sullo smartphone, e forse proprio questo potrebbe essere il vero futuro della TV, perché se ormai ci abituiamo a ragionare in termini di app, tutto quello che facciamo anche sul televisore potrebbe diventare un'app. Ci sono già degli esempi di questo genere su altre scatolette che si collegano al televisore, simili alla Apple TV. Apple spinge molto su questo concetto, poi naturalmente qui stiamo parlando anche di un prodotto che si affermerà anche a seconda degli accordi che verranno fatti per i contenuti. Vincerà chi avrà contenuti molto interessanti e vedremo che cosa proporrà anche sul mercato italiano Apple. Infine iPhone. Introducing the iPhone 6S and the iPhone 6S Plus. Sono stati lanciati i nuovi iPhone 6S e 6S Plus, sono uguali nel design, hanno una nuova fotocamera, un nuovo processore, tante caratteristiche nuove, ma la vera novità, questa forse è la novità interessante, si chiama 3D Touch. It's called 3D Touch. Cioè la possibilità di interagire col display touch in modo diverso a seconda della pressione che esercitiamo col dito, a seconda della intensità con cui premiamo, e appunto a seconda dell'intensità della pressione che esercitiamo possono succedere cose diverse. Bisognerà provare, per il momento per gli italiani bisognerà attendere probabilmente novembre o dicembre, perché Apple ha deciso, ma del resto lo ha fatto in altre occasioni, di non inserire l'Italia tra i primi paesi in cui verrà venduto tra un paio di settimane il nuovo iPhone. Questa tecnologia già Apple la utilizza in altri prodotti, anche nell'Apple Watch, è stata sperimentata anche da altri produttori, ma direi che sul mondo degli smartphone Apple è la prima ad introdurla su larga scala e molto probabilmente altri produttori la seguiranno. Tutto ciò, tutte queste caratteristiche per mantenere un primato di iPhone indiscutibile nella fascia alta del mercato. Pensate che iPhone è lo smartphone più venduto al mondo e rappresenta oltre il 60% dei ricavi di Apple. Adesso le notizie più importanti della settimana in breve condensate nelle nostre Digital News. Digital News. Telecom Italia e Vodafone, le uniche due aziende che hanno presentato offerte, si sono aggiudicate due lotti di frequenze per la banda larga mobile che potranno essere utilizzate per i servizi 4G. Lo Stato incassa 462 milioni di euro che verranno utilizzati per finanziare progetti per la banda larga fissa. Digital News. A proposito di banda larga fissa, mentre dall'Italia non abbiamo notizie e speriamo di averle nelle prossime settimane, il governo tedesco ha annunciato che entro il 2018 tutte le case saranno raggiunte da una connessione ad almeno 50 megabits e per questo ha stanziato 2,7 miliardi di euro per posare fibra ottica. Già oggi il 70% delle case tedesche sono già raggiunte da connessioni a 50 megabits, quindi diciamo che il risultato è a portata di mano. Digital News. È iniziata la fase di integrazione di Seat Pagine Gialle in Italia Online, che di fatto acquisisce clienti e rete di vendita. Quindi si tratta della fine di una storia che per alcuni anni è stata gloriosa, però è stata anche una storia di mille mancate occasioni e di poca visione tecnologica, soprattutto negli ultimi anni di Seat Pagine Gialle. Digital News. Due notizie che riguardano due debutti nel mondo della TV italiana. Quella, parliamo di tecnologia naturalmente, quella sul digitale terrestre e quella online in streaming. Allora, da lunedì 14 settembre debutta sul canale 557 del digitale terrestre Rai Sport HD e visto l'esiguo numero di trasmissioni in alta definizione sul digitale terrestre italiano è sicuramente una buona notizia. Sempre lunedì debutta Premium Online, la nuova offerta in abbonamento solo online di Mediaset. Quindi si tratta di video in streaming online, prezzi a partire da 9 euro al mese. Digital News. Si apre un nuovo canale pubblicitario, anche in Italia è ora possibile fare pubblicità su Instagram, il social network fotografico che era stato acquistato 3 anni fa da Facebook. Gli annunci verranno visualizzati in mezzo allo stream di foto. Digital News. Un altro capitolo della battaglia fra gli over the top e gli operatori di telecomunicazione, altro capitolo che va a favore degli over the top, Vodafone ha deciso di chiudere a partire dal 1 novembre il servizio cloud e si affiderà a Dropbox. Digital News. Un'ultima notizia che riguarda Galileo, il sistema di posizionamento satellitare europeo che dovrebbe diventare operativo dal prossimo anno con i primi ma limitati servizi e sarà invece completato nel 2020. Un razzo Soyuz lanciato dal Centro Spaziale Europeo della Guyana francese nella notte di giovedì ha messo in orbita il satellite 9 e 10 del sistema Galileo. Si tratta del satellite Alba e del satellite Orianna. I prossimi due satelliti verranno lanciati in dicembre. Allora, dico una cosa sui nomi di questi satelliti. Sono nomi di bambini europei che hanno vinto un concorso della Commissione europea. Quindi ogni satellite ha un nome di un bambino e secondo me è una cosa sicuramente molto divertente. Peccato per quei bambini il cui nome è finito sui satelliti che sono finiti fuori orbita, quello che è stato perso, insomma, non sono stati tanto fortunati. Allora, i servizi commerciali gratuiti cominceranno ad essere disponibili nel 2020 al completamento della costellazione o comunque quando i produttori di terminali, come gli smartphone, cominceranno ad inserire i ricevitori per il segnale Galileo, perché oggi su tutti i terminali, quindi anche sugli smartphone, è disponibile il ricevitore GPS e su molti anche i ricevitori per i segnali del GLONASS, che è il sistema satellitare russo, e il Beidou, che è quello cinese. Insomma, bisognerà mettere anche le antennine per ricevere il segnale del Galileo. Adesso il primo ospite di questa puntata di 2024. In occasione della presentazione dei nuovi prodotti per la sicurezza, come ad esempio il notissimo antivirus, Kaspersky, l'azienda russa che è uno dei grandi player mondiali nel settore della sicurezza informatica, in questa occasione ha fatto tappa a Milano anche Eugene Kaspersky, che è il fondatore di questa azienda, di questa grandissima azienda, ed è sicuramente uno dei più noti esperti di security a livello mondiale, col quale abbiamo fatto alcune chiacchiere molto interessanti, abbiamo parlato di nuove minacce. Dunque ci sono alcuni trend che mi tengono molto occupato. Prima di tutto ci sono sempre più attacchi sui sistemi mobili, gli smartphone per intenderci, e sfortunatamente molti consumatori non sono consapevoli di questa minaccia, a differenza degli utenti di computer che invece conoscono le minacce ai loro PC. In mobile world it's still not like this, but unfortunately cyber criminals they pay more and more attention to mobile. Nel mobile non c'è questa sensibilità, ma sfortunatamente i criminali ci stanno dedicando un'attenzione crescente. Mi dispiace dire poi che nel futuro vedremo attacchi destinati ad altri tipi di terminali e le prossime vittime saranno gli smart TV. I think that the next victim is a smart TV. The second trend is that unfortunately we see more and more traditional criminals. Il secondo trend è che vedremo un numero crescente di normali criminali assoldare ingegneri software per attaccare i sistemi informatici. Tutto ciò per sostenere e foraggiare il crimine tradizionale. And the third trend, which is the worst of the worst. Il terzo trend, che è il peggio del peggio, riguarda i possibili attacchi alle infrastrutture critiche come le reti fisiche, quelle finanziarie o le telecomunicazioni. A proposito di mobile, quindi dei nostri smartphone, secondo i dati presentati da Kaspersky, il 99% delle minacce dirette a terminali mobili è destinata ad Android. Quindi fate un po' i vostri conti. Abbiamo parlato anche di minacce forse destinate alla tecnologia del futuro. Abbiamo parlato di automobili e ho chiesto a Eugene Kaspersky se ci dobbiamo preoccupare delle nostre automobili. Talking about other devices like cars or planes, trains. Parlando di altri device come automobili, aerei o treni, penso che le aziende che progettano i sistemi di bordo debbano prestare più attenzione alla sicurezza informatica. Quindi mi devo preoccupare? Which kind of car do you have? Che tipo di macchina hai? Ma in questo momento una Volkswagen. If you are really paranoid about... Ma direi che se sei veramente paranoico nei confronti di questo tipo di attacchi, but I recommend you to switch to Russian Lada or to bicycle. Ti suggerirei di passare alla russa Lada o ad una bicicletta. Beh, poi su questo abbiamo fatto una grossa risata. Probabilmente questa osservazione riguarda tutte o comunque la stragrande maggioranza di automobili dei prossimi anni, a parte appunto la Lada, se non cambia strategia commerciale, ma direi già alcune automobili di oggi. Sulle automobili connesse, già in buona parte automatiche, perché ci sono dei sistemi di assistenza alla guida già oggi molto robusti e molto affidabili e tecnologicamente molto evoluti. Di questo parleremo nel corso delle prossime puntate di 2024. Questo è un tema molto importante, di come si sta trasformando l'industria automobilistica. Dunque, altre cose di cui abbiamo discusso con Eugene Kaspersky, e queste le inseriamo solo nella versione podcast per i nostri ascoltatori fedeli del podcast, abbiamo discusso di quello che è successo tra la primavera e l'estate, cioè l'attacco informatico ad Hacking Team. Ricorderete questa società italiana che produceva o comunque produce, perché adesso sono al lavoro per stabilizzare il sistema, per produrre un nuovo software. Allora, produce un software spia che viene utilizzato dai servizi di spionaggio, dai servizi segreti, dalle polizie di tutto il mondo e naturalmente anche da quelle italiane, per bucare computer, smartphone, per andare a spiare, una volta che il giudice ha autorizzato, questi sistemi. Allora, c'è un grosso dibattito al di là di quello che è accaduto, ma anche e soprattutto la magistratura ci dirà quello che è successo, ma al di là di questo c'è un grosso dibattito sulla necessità di mettere regole per l'uso di questi software, perché c'è chi dice, ma del resto anche Davide Vincenzetti, che è uno dei fondatori che noi abbiamo intervistato e che abbiamo poi invitato nuovamente, per il momento ha detto che deve lavorare, c'ha troppo da lavorare quindi non ha tempo per l'intervista, comunque diceva queste sono armi informatiche. Allora ho chiesto a Eugene Kaspersky se forse non è il caso, se lui è d'accordo o meno, di regolare questo tipo di software. The reality is that the cyberspace doesn't have borders. La verità è che lo spazio digitale non ha confini e ciò che accade in una nazione, bello o brutto che sia, accade poi anche in un altro paese. I criminali informatici operano in diversi paesi e attaccano le loro vittime in altri ancora. We need some kind of the international regulation or... Penso che sia necessaria una regolamentazione internazionale di qualche tipo. Ci vogliono trattati sul cyberspace o particolari dipartimenti all'interno delle Nazioni Unite per coordinare i regolamenti internazionali, le indagini nello spazio digitale e i progetti sull'antiterrorismo informatico. Anti-cyber-terrorism projects. Secondo lei il software, o meglio alcuni tipi di software, possono essere paragonati alle armi? I think that it's not just we can compare some software with weapons. Non solo possiamo paragonare alcuni tipi di software con le armi, ma direi che alcuni software sono armi digitali vere e proprie. Ad esempio, gli attacchi che sono progettati per danneggiare o distruggere infrastrutture critiche fisiche o reti di telecomunicazioni. Finora siamo stati abbastanza fortunati a non essere stati vittime del cyberterrorismo o cybersabotaggi, ma penso che nei prossimi anni saranno più frequenti e termini come armi digitali, terrorismo o sabotaggio digitali diventeranno molto comuni. The definitions of cyber weapons, of cyber terrorism, cyber sabotage, I'm afraid very soon will be that, like a common definition. Cosa bisogna fare per rendere sempre più difficile la vita dei criminali informatici? The definition of perfect security is that the attack must be more expensive than possible damage. La definizione della sicurezza perfetta è che l'attacco deve essere più costoso dei possibili danni. Cioè che chi progetta l'attacco deve investire molte più risorse e tempo rispetto ai possibili danni alle vittime dell'attacco. La protezione delle infrastrutture digitali che gestiscono le infrastrutture fisiche deve essere fatto in modo che, diciamo così, il ritorno dell'investimento di chi attacca sia negativo. Let's say negative return on investment. Questo è 2024, la nostra versione podcast solo per i nostri ascoltatori fedeli. Fateci pubblicità, diffondete la cultura digitale, la cultura tecnologica, ne abbiamo bisogno a livello industriale, a livello di paese, insomma a vari livelli, nelle scuole, nella politica. Ci fermiamo per pochi secondi, riprendiamo tra pochissimo. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, in onda venerdì tra le 22 e le 23 e la domenica alle 13.30. Questa è la nostra prima puntata della nuova stagione di 2024 e non potevamo non avere con noi Gianfranco Giardina, il nostro principale esperto, direttore del magazine digitale dday.it. Gianfranco, bentornato a 2024. Grazie mille, bentrovati a tutti gli ascoltatori. Tu sei appena tornato, da poco tornato, da Berlino, dove ha aperto la stagione dell'elettronica di consumo, una fiera che sta diventando sempre più importante, l'IFA di Berlino, che è, potremmo dire, il Consumer Electronic Show europeo? Sì, oramai diciamo che è l'appuntamento che fa un po' da contraltare al Consumer Electronics Show di Las Vegas e oramai quasi esclusivamente il secondo appuntamento nel corso dell'anno. Las Vegas a gennaio resta comunque l'appuntamento più importante per tutti i mercati. Allora, naturalmente sono stati presentati nuovi smartphone, però diciamo nulla di particolarmente innovativo. Tante presentazioni come ce ne sono nel corso dell'anno, nulla di più. Sì, devo dire che forse la cosa più innovativa è in sottrazione invece che essere in aggiunta, cioè Samsung che ci aveva abituato ormai negli ultimi anni a presentare un nuovo telefono, un nuovo device molto importante a Berlino il giorno prima dell'inizio della fiera, quest'anno ha anticipato il proprio annuncio. È il Galaxy S6 appunto, l'ha anticipato al 13 di agosto, poteva appunto ritardarlo un po' e portarlo a Berlino, no? Sì. Ha deciso di farne un evento separato. Evidentemente il momento della fiera porta con sé così tante notizie, così tanta visibilità mediatica che finisce probabilmente questo nella percezione di Samsung per diluire il grande annuncio, quindi ha preferito fare l'annuncio separatamente e chiaramente alla fiera è mancato un protagonista, anche se certamente tutti hanno potuto toccare, giocare con l'S6, sì, la nuova versione, sì, dell'S6. Allora, diciamo che protagonista molto interessante, molto importante è stata la nuova tecnologia con cui vedremo i televisori nei prossimi anni, l'OLED. Però prima di parlare di OLED, che è bellissimo, volevo parlare di Internet of Things, Internet degli oggetti. Anche in questa fiera avete visto una marea di prodotti di questo genere, e tu hai anche scritto su D-Day.it che forse gli annunci più interessanti sono arrivati dal mondo degli elettrodomestici, che sono da tempo snobbati. Sì, noi da tempo snobbati, più che altro da tempo ci hanno abituato a una costanza di tecnologie, a una sedentarietà, mi viene da dire, assolutamente pluriennale. Un elettrodomestico resta simile fino a oggi. Nel corso di qualche anno, 5, 6, 8 anni, le nuove tecnologie vengono introdotte in maniera molto più lenta, e in ogni caso si è trattato in larghissima parte fino a oggi di tecnologie puramente elettromeccaniche, e quindi nulla che avesse dei componenti particolarmente smart, evoluti dal punto di vista digitale, se non le logiche di controllo, che ovviamente non sono più fatte in maniera elettrotecnica, mi viene da dire, ma in maniera elettronica oramai, ma al di là di questo il prodotto era fino a ieri largamente elettromeccanico. Che cosa succede? Adesso tutti gli elettrodomestici stanno scoprendo le gioie del digitale, avrebbero potuto farlo anche qualche anno fa, ma l'abbiamo detto, il mondo degli elettrodomestici non è il mondo più ricettivo nei confronti delle innovazioni, e lo sta facendo in massa, nel senso che tutti i produttori di elettrodomestici hanno presentato la loro soluzione di elettrodomestici connessi, quindi controllabili via app in maniera più o meno interessante, con funzionalità più o meno interessanti, ma tutti comunque connessi. Ci stanno buttando tutti, insomma. Sì, ci stanno buttando tutti, non si può non avere più una linea di elettrodomestici connessi. Ma allo stesso modo anche abbiamo visto anche dei piccoli elettrodomestici che diventano sempre più evoluti, sempre più interessanti anche dal punto di vista tecnologico, per incontrare le nuove tendenze legate anche alla vita in casa, che ormai ci stanno caratterizzando. Cioè, una volta un piccolo elettrodomestico si chiedeva semplicemente di funzionare. Adesso si chiede di funzionare in un modo che sia particolarmente rispettoso o del consumo energetico o della nostra salute o del nostro comfort o semplicemente anche della velocità, per esempio, di preparazione o di pulizia. E su questi temi si stanno sviluppando dei mercati importantissimi. Quello degli estrattori è uno, ma quello della sanificazione dell'aria. Degli estrattori? Estrattori di succo, sì, certo, da frutta e da verdura, frutta, sì. Che nulla c'entrano proprio per la procedura con la quale estraggono il succo, né coi frullatori e neanche con le centrifughe. Sono delle macchine che, siccome estraggono il succo a lenta velocità, non fanno un'operazione di centrifuga, non riscaldano per attrito il succo e quindi non vanno a rompere insomma le molecole nobili, sì, sì, del succo, lasciando intatto il potere nutritivo. Ecco, in questo caso, per esempio, la vera differenza tra un estrattore e una centrifuga, che già ci sono da anni, è questa. In questo momento gli estrattori esistevano anche già sul mercato prima, ma in questo momento è vero boom, proprio perché c'è un rinnovato interesse all'alimentazione, a come ci si ciba, e tutte le macchine, le tecnologie che aiutano a fare alimentazione in casa, e quindi più sana di quella che potremmo fare fuori o comprando già i prodotti confezionati, a farla più velocemente, a farla in maniera più intelligente o magari connessa a internet, e questo chiaramente sta avendo un gran successo. O comunque, diciamo, stanno cominciando a entrare prepotentemente nel mercato. Poi del successo parleremo. Di successo parleremo, anche perché, sì, come sempre, non lo decretiamo noi, lo dico spesso, il successo lo decreta il registratore di cassa, sì, e non noi che decidiamo, non possiamo decidere. Senti, noi qui. Ma questi elettrodomestici smart connessi, allora innanzitutto che cosa fanno? un paio di esempi, un esempio, due esempi, ma secondo, sono effettivamente poi utili e sono effettivamente intelligenti, connessi? Cioè la connessione ha un grado di intelligenza o è così puro cinema? Magari vedo sull'app quanto consuma la lavatrice. Allora, noi abbiamo fatto una fotografia di quello che offriva il mercato fino a prima dell'IFA. In Italia erano distribuiti circa 10 modelli che era possibile connettere, parlo di grandi elettrodomestici, che è possibile connettere con un'app. 10 modelli intendo di tutti i produttori, quindi pochissimi. Okay. E in larga parte, quando abbiamo provato a fare le connessioni, queste connessioni erano complicatissime da fare, richiedevano una registrazione su un sito, poi un'autorizzazione supplementare, cioè veramente una cosa che è difficile portare a termine, praticamente più una cosa teorica in realtà che pratica. Non abbiamo provato i nuovi sistemi, tutti adesso dichiarano che il collegamento è immediato e facilissimo. Stante il collegamento tra il grande elettrodomestico e il nostro smartphone, il nostro tablet, adesso bisogna capire che cosa ci facciamo, come dicevi giustamente. Per esempio, prendiamo un frigorifero. Io di primo acchito sarei portato a pensare che non c'è nessun tipo di utilità tra la connessione, un frigorifero e la sua connessione a internet e il controllo tramite smartphone, anche perché tutto quello che si può regolare normalmente di un frigorifero è il set point della temperatura, quindi la temperatura che si imposta. Normalmente si imposta una volta nella vita e non si tocca più, quindi che motivo ci sarebbe di sapere questo? Sarebbe bello sapere per caso quando salta la luce per via del frigorifero, ma se salta la luce il frigorifero non comunica più con là, e certo, quindi a quel punto diventa praticamente avere le inutile. Batterie supplementari, sì, dovrebbe essere una complicazione. Troppo complicata. E invece, per esempio, è stata inventata un'applicazione interessante, fatta vedere sia da LG che da Bosch, con un'implementazione un po' diversa, ma logica identica. Praticamente ogni volta che si chiude la porta del frigorifero, il frigorifero attende un attimo a spegnere le luci e a porta chiusa effettua delle foto all'interno del vano, quindi a seconda dei modelli più foto per andare a catturare tutte le posizioni, sia quello che c'è nella portiera, quindi con una fotocamera che spara verso la portiera, sia quello che c'è nel vano principale con un'altra fotocamera. In alcuni casi, è il caso per esempio di uno di questi frigoriferi, addirittura scatta una foto anche quando si apre i cassetti, quelli sotto della verdura, in modo tale che venga fotografato anche il contenuto. In questo modo io in qualsiasi momento, anche lontano da casa, posso accedere a queste fotografie collegandomi col frigorifero, solo alle ultime, ovviamente non avrebbe senso collegarsi a quelle precedenti, per vedere, in buona sostanza, per ricordarmi che cosa ho nel frigorifero. Ah, tipo al supermercato uno dice, ma ce le ho le carote? Ecco, e assolutamente vedo se nel cassetto in qualche modo... quindi questo uno che cosa potrebbe, che... Allora, ad oggi ad uno potrebbe sembrare strana sta cosa, però chissà, magari fra qualche anno... sarà nostra abitudine controllare il frigorifero dallo smartphone mentre siamo al supermercato. Allora, devo dire che questo ci insegna soltanto una cosa, che le applicazioni di questa Internet of Things e quindi questa iperconnessione di tutti gli apparecchi, tutte queste applicazioni noi le scopriremo negli anni. Nel senso che, come dicevo, io fino a prima dell'IFA non avrei pensato, ma con la mia cervello limitato ovviamente, a un'applicazione sensata per il frigorifero. Questa delle fotografie mi sembra già più sensata. Magari se ne inventeranno delle altre, magari verranno poi, nascerà anche, però vedete qui c'è tutto un ecosistema che deve nascere, perché se ci fosse un ecosistema, per esempio, dove tutti gli alimenti avessero un tag RFID, con per esempio la data di scadenza, basterebbe inserirli nel frigorifero perché il mio frigorifero conosca le date di scadenza degli alimenti. È chiaro che i frigoriferi che si sono visti già oggi, che mi ricordano che mi sta scadendo qualche cosa o mi dicono che ingredienti ho o che stanno finendo e mi consigliano per la spesa, sono più delle trovate pubblicitarie. Sì, che gli esperimenti. No, ma esistono. Perché in questo momento chi fa da mangiare o chi porta la spesa a casa dovrebbe trasformarsi in un magazziniere, facendo il carico di magazzino quando porta la spesa a casa e quando fa da mangiare scaricare il magazzino. Sì. Questo, finché non avverrà in modo completamente automatico, sarà totalmente inapplicabile, ma non escluso che questo accada. Certo, ti faccio una domanda sull'ecosistema o gli ecosistemi, perché questo è un altro grande problema. Mi pare di capire, ed è un tema che viene criticato molto spesso, che ogni produttore parla di Internet of Things, la Internet degli oggetti, però con un linguaggio proprio, che dice che è open a tutti, però ognuno ha le sue. Sì, ognuno sviluppa la propria app dialoga con i propri elettrodomestici, il protocollo viene comunque normalmente reso disponibile per terze parti che volessero implementarlo. Ovviamente il costo vero è quello di andare a dialogare con tutti i protocolli che ci sono, cioè sviluppare tutto il software che permette il dialogo, e quindi il succo è che non esiste un ecosistema unico, ma esistono n ecosistemi paralleli, per cui in uno scenario di breve termine, fino a che non cambierà qualcosa, quello che accade è che noi avremo 1, 2 o 100 oggetti connessi in casa, a seconda della nostra propensione all'utilizzo di questi oggetti, con 1, 2 o 100 applicazioni che li controllano, dove il centro stella lo fa l'uomo. E questo è il grosso problema, perché il vero vantaggio di questi oggetti, per questo siamo a metà del guado in questo momento e non tutti potrebbero vederne l'utilità, il vero vantaggio di avere questi oggetti è quello di poter scatenare delle azioni al variare di alcune variabili. Faccio un esempio banalissimo: sale la temperatura oltre i 30 gradi, io voglio aumentare il tempo di irrigazione del mio balcone. No, ma il punto, io devo collegare una stazione meteo di una marca A con un irrigatore di una marca B e devo creare una condizione che faccia sì che al verificarsi di quella condizione si scateni un altro evento. Sì, automaticamente. Automaticamente. Posso farlo io, posso con l'app continuare a guardare la mia stazione meteo, vedere la temperatura com'è, e con un'altra app attivare l'irrigazione. È chiaro che finché il centrostella è l'uomo, la cosa diventa... Sì, può essere vissuta come una complicazione in più piuttosto che una comodità. Ma di fatto lo è, perché certo ci dà informazioni in più, ma siamo già in un'era di iperconnessioni e iperinformazione. Il problema probabilmente non è più avere le informazioni, ce ne abbiamo già tantissime, e avere il tempo, il modo e la facilità di gestirle. Allora Gianfranco, ci fermiamo per un minuto. Vi ricordo che più tardi sarà con noi Roberto Loiola, che è l'amministratore delegato di Alcatel-Lucent Italia, per parlare del mondo in trasformazione delle telecomunicazioni. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24. Tra poco parliamo di OLED. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024. Adesso parliamo di OLED. Che cosa sono gli OLED? Sono televisori che già esistono sul mercato, ma sicuramente saranno i televisori del futuro. Quindi nei prossimi anni cambierà la tecnologia con cui i televisori mostrano le immagini. È con noi Gianfranco Giardina, che, come dicevo, è appena tornato da l'IFA di Berlino, questa fiera importante, e si è parlato anche di OLED, che però non vanno confusi con il LED. Questo è un problema dell'OLED, perché il nome rischia di far confusione o di sembrare semplicemente un'estensione. OLED è una tecnologia display che non ha nulla a che vedere con i LED, che i LED sono semplicemente una rideclinazione dell'LCD, quindi dei cristalli liquidi. Non sono cristalli liquidi, si basano su un materiale organico, sono una tecnologia completamente diversa. Caratteristica principale dell'OLED qual è? Caratteristica principale dell'OLED è quella di essere self-emitting, come dicono gli inglesi, quindi di emettere spontaneamente la luce che compone l'immagine e di non aver bisogno di una retroilluminazione. Questo può sembrare semplicemente un tecnicismo, ma nella realtà questa differenza fa sì che il pixel nero, il punto nero, sia una cella completamente spenta e quindi non con una luce posteriore da schermare come succede negli LCD e nei LED, e invece la cella accesa sia una cella accesa che emette luce proprio perché esiste, mi viene da dire, no? E quindi questo permette di avere delle immagini terribilmente brillanti quando sono colorate, colori incredibilmente vividi, molto belli, e soprattutto un nero totale, inciso, tant'è vero che per questi tipi di TV non è più misurabile il rapporto di contrasto, cioè il rapporto di contrasto diventa infinito perché il nero è un display totalmente spento. Questo fa sì che le immagini siano incredibilmente incise, molto più nette, molto, qualcuno addirittura le trova quasi tridimensionali, anche se non si parla si può dire più vere? In questo caso direi che si può dire più vere nella misura in cui il nero è un nero finalmente totalmente spento, come nella realtà. Quando è buio, buio. Quando è buio, buio. E quindi, per esempio, faccio questo esempio, lo stand LG, c'era tutta l'apertura dello stand che era in un grandissimo ambiente, alto diversi metri, molto scuro. In questo grandissimo ambiente, su tutta una parete, c'era di fatto una parete di TV OLED, ma entrando in questo spazio scuro, dove ci si vedeva per camminare, ma c'era poca luce oggettivamente, i TV non si vedevano affatto. A un certo punto partiva e si vedeva una pallina muoversi su uno schermo, poi ne compariva un'altra, e laddove non si sospettava neanche che ci potesse essere uno schermo, di fatto comparivano oggetti su degli schermi. Perché? Perché il TV, che normalmente in una stanza molto scura, un TV LCD, si legge, come si dice in gergo, cioè si vede, si capisce il quadro, sì, sì. Perché c'è una leggera luminescenza. Ecco, assolutamente niente. Questa è una demo chiaramente che colpiva molto. All'atto pratico, in realtà, gli OLED hanno un grande vantaggio, che non hanno, come dire, altri prerequisiti di funzionamento, cioè devono esserci delle trasmissioni compatibili, piuttosto che si vedono già meravigliosamente con le trasmissioni di oggi. Meglio se in HD, ovviamente. Anche col digitale terrestre, volendo. Anche col digitale terrestre, sì, sì, anche sì. Col satellite, anche con i film, con i Blu-ray, con i DVD, con i film in streaming. Cioè, uno gode della migliore qualità d'immagine dal primo minuto del primo tempo. E questo è assolutamente importante, perché l'altro tema molto caldo sui TV, che è il 4K o l'Ultra HD, è già una cosa che ha due nomi diversi. E non va bene. Non va bene, anche perché è la stessa cosa, ma c'ha due nomi diversi, che è un incremento, una quadruplicazione della risoluzione, ha chiaramente come prerequisito perché possa essere goduto il fatto di avere dei contenuti in 4K. E siccome i contenuti in 4K in questo momento tardicchiano, forse vedremo qualche annuncio di fatto non a Las sono. Vegas, al momento praticamente non ci sono, è chiaro che uno porta a casa un TV 4K e con la speranza di goderne nel futuro. Sì, uno sì, porta a casa un TV OLED e ne gode subito. Esatto. E da un certo punto di vista, insomma, carpe diem, verrebbe da dire, e uno... Sì, poi questo resta... lo diciamo chiaramente e lo ribadiamo e ripetiamo anche in questa occasione, è inutile, pressoché inutile, comprare un TV 4K oggi per l'utilizzo di per oggi, l'utilizzo di oggi, tranne che per vedere le fotografie 8 megapixel, vabbè, però, diciamo, però, vabbè. Lo voglio aggiungere. Sì. Una cosa va detta: OLED e 4K non sono due scelte alternative. Ah, certo. Esistono i TV OLED 4K, esistono i TV OLED Full HD, costano un po' meno, e TV OLED 4K che invece sono ovviamente uniscono la qualità dell'OLED con la possibilità di riprodurre questi contenuti che si spera verranno. Dunque, domanda di mercato: questi prodotti sono già sul mercato, quanto costano? Perché quando arriva una nuova tecnologia sappiamo che costa molti soldi. Allora, l'OLED è già arrivato sul mercato da qualche anno nella sua versione Full HD, da un paio d'anni, in quantità abbastanza contenute. Questo ha fatto sì, chiaramente, quando le quantità sono contenute, che il prezzo non scendesse più di tanto oltre certi limiti, anzi un po' è sceso, ma è stato collocato inizialmente a un prezzo molto alto. I primi TV 55 pollici parlavamo intorno agli 8.000 euro, quindi cifre molto costose. Adesso stiamo parlando di qualche cosa che già nel mese di ottobre si avvicinerà pericolosamente, fortunatamente, ai 2.000 euro, scendendo probabilmente anche sotto. Parliamo dei 55 pollici, scendendo anche sotto e quindi andando a investire la fascia dei TV premium, che attualmente sta appunto tra i 1.400 e 2.000 euro. Stiamo parlando di TV molto importanti, sì, certo. No? E quindi non stiamo parlando di TV entry level, stiamo parlando di grandi polliciaggi, quindi grandi dimensioni. No, quindi stiamo già abbassando. No, il prezzo è già uniformato. Si pensa che questo autunno l'OLED possa andare a dar fastidio agli LCD, almeno nella fascia alta del mercato, cosa che non è mai successa, perché è sempre stato collocato a dei prezzi che erano comunque superiori agli LCD. Senti, fino ad oggi ha investito pesantemente nella tecnologia OLED, che richiede fabbriche nuove, linee produttive nuove, quindi investimenti di milioni di dollari, solo LG. È ancora così? Ma LG è quella che ha investito di più, è quella che ha realizzato un pannello che ha una caratteristica fondamentale. Noi non sappiamo oggi qual è la durata, per certo ovviamente, qual è la durata nel tempo dei pannelli OLED, non c'è uno storico. No? Lo cioè, non sappiamo se fra 10 anni si vede ancora come oggi. Ma, i progettisti promettono di sì, ma non lo sappiamo effettivamente. Di certo sappiamo che le celle rosse, verde e blu che compongono il pannello OLED tendono a consumarsi, come tutti i TV di questo mondo. Anche il vecchio tubo catodico aveva un'emissione luminosa che cambiava nel tempo, tendono a consumarsi ma in maniera non uguale secondo delle componenti cromatiche, e questo potrebbe portare a una deriva della taratura cromatica del TV. LG che cosa ha fatto? Si è inventato un pannello diverso, sempre fatto con le celle OLED, ma tutte bianche, quindi tutte uguali, mettendo un filtro colore davanti alle celle, e quindi ha fatto questo OLED bianco cosiddetto. Questo filtro colore fa sì che quella luce bianca si veda verde, rossa e blu a seconda del pixel, del subpixel precisamente. In questo modo il pannello si consuma uniformemente. Perché le celle sono tutte uguali in realtà. Sì, quindi, quindi quel problema l'ha risolto, ha potuto investire e arrivare sul mercato con un prodotto forse prima di altri che avevano seguito invece la strada di stabilizzare i pannelli proprio nativi RGB, che è molto più difficile da stabilizzare. Questa è la strada che ha scelto Samsung e che ancora non ha portato l'azienda coreana ad avere sì dei prototipi in fiera, ma non un prodotto commerciale. Poi può essere una scelta tecnologica, può essere una scelta anche magari semplicemente commerciale, perché Samsung è già leader nel mercato degli LCD e dice perché dovrà introdurre una nuova tecnologia. Ci certo, sta. Certo. Fatto sta che LG è quella che produce oramai in massa questi pannelli e li sta incominciando a vendere anche ad altri produttori. Quindi al di là di produttori magari minori, cinesi, che gli hanno fatto la scelta sin da subito di scegliere la partnership con LG perché comunque non avrebbero avuto magari la capacità di produrre gli OLED, ma mi dicono che anche dalla Cina nel corso del 2016 arriveranno dei pannelli OLED. Per esempio Panasonic ha presentato un nuovo TV OLED 65 pollici, molto bello, molto sofisticato, che si basa di fatto sul pannello LG. Cioè Panasonic compra da LG il pannello, aggiunge la sua elettronica, secondo Panasonic è un'elettronica particolarmente sofisticata che prende l'eredità dalla vecchia scuola del plasma, di cui Panasonic è stata tra i protagonisti, e la applica all'OLED per avere una colorimetria e una gestione dei neri assolutamente perfetta. È ancora, nel caso di Panasonic, un modello solo, 65 pollici, di cui non si conosce ancora il prezzo, che arriverà a novembre, ma probabilmente molto costoso. Si però immagina, arriva anche in Italia? Arriva anche in Italia. Questo lo diciamo mica per comprarlo, ma per andare a vedere, perché sì, effettivamente sì. Uno vede questi pannelli che sono meravigliosi. Si immagina intorno ai 10.000 euro, ma è un TV molto particolare, col dorso finito in alcantara, quindi un pochino addirittura del colore bellissimo, customizzabile. Bellissimo. Il colore può essere scelto del tessuto. La Ferrari? Come la Ferrari? Beh, vabbè, dovendo farne uno e un modello solo, hanno scelto probabilmente quello. LG invece no, LG arriva sul mercato come ci è stato detto, proprio una pioggia di OLED, quindi intende arrivare finalmente con le quantità sui 55-65 pollici. Curvi e piatti. Full HD 4K, sia curvi che piatti. Meno male. Abbiamo sentito finalmente dalle persone di LG una teoria che ci è piaciuta e la teoria è la seguente: il curvo piatto per me pari sono, cioè lo scelga il consumatore. Sì, certo. E noi abbiamo sempre consigliato il piatto perché è ragionevolmente meglio, ha meno distorsioni geometriche ed è meglio. Chiaro. Qualcuno preferisce il curvo perché arreda di più, perché esteticamente sembra più leggero. Benissimo, LG dice scegliete il curvo e il piatto, costa uguale, noi li posizioneremo allo stesso prezzo. Ed è finalmente una politica che ci sentiamo di condividere. È inutile andare contro il mercato, se il mercato vuole il curvo sceglie il curvo, se vuole il piatto giusto, come giusto. Noi consigliamo sceglie il piatto. Molto bene Gianfranco, grazie per essere stato con noi, buon viaggio, visto che torni in viaggio, però alla fine del viaggio poi ti torniamo ad interrogare. Va bene, grazie mille. Adesso parliamo di banda larga, sia mobile che fissa, di telecomunicazioni. Questa settimana ci concediamo una chiacchierata, guardando anche un po' verso i prossimi anni. Non abbiamo notizie relative ai piani del governo di cui abbiamo parlato per settimane e settimane. C'è un momento di pausa, torneremo sperando di avere notizie più specifiche e particolari su alcuni annunci molto poco dettagliati che sono stati fatti durante l'estate. Sapete che diciamo spesso che il paese, ma non solo l'Italia, tutta l'Europa ha una necessità molto forte di investimenti per diffondere le infrastrutture, perché internet è fondamentale per l'economia di oggi. Tanti anni fa c'erano delle infrastrutture su cui bisognava investire di diverso genere, oggi l'infrastruttura su cui bisogna investire è la fibra ottica, la banda larga mobile, eccetera, eccetera. Roberto Loiola è l'amministratore delegato di Alcatel Lucent Italia. Benvenuto a 2024. Grazie. Diciamo subito quello che voi fate. Voi vi occupate di reti a banda larga, sia mobili che fisse, di cavi e di wireless, di antenne. Sì, ci occupiamo di reti di telecomunicazione a largo spettro, quindi come lei diceva, quelle mobili, quelle fisse, quelle che viaggiano su fibra ottica, quelle che viaggiano nell'etere, quelle che permettono ai nostri telefonini di funzionare, oppure alla nostra connessione a banda, speriamo sempre più ultralarga, nelle case, nelle aziende, di funzionare appunto, oppure anche sempre più ai contenuti digitali, anche video, di essere fruiti con qualità, speriamo sempre maggiore, da ciascuno di noi. Con una parte di ricerca anche in Italia, che può sembrare strano in questo mondo che si sposta sempre più verso l'Asia, se non sbaglio. Sì, diciamo che innanzitutto noi abbiamo una storia molto radicata in Italia da tantissimi anni, quindi la ricerca che si è fatta in Italia, soprattutto nell'area del Vimercatese, quindi alle porte di Milano, è una ricerca che si fa lì da tanti anni e che si è però nell'ultimo periodo consolidata ulteriormente, soprattutto su due direttrici, direi, di ricerca e sviluppo. Una, quella delle tecnologie ottiche, soprattutto per il trasporto di enormi quantità di dati a velocità sempre più forti, più alte, e poi la parte di trasmissione invece radio, di ponti radio, diciamo, sì, di nuova generazione. Quando parliamo di tecnologia ottica facciamo riferimento a tecnologie che poi sfruttano la fibra ottica. Assolutamente sì, il segnale viaggia sulla fibra ottica. E questo può venire nella rete in sostanza in due parti, semplificando un po'. Uno, nella parte di accesso, quindi possono esistere reti in fibra che arrivano proprio nelle nostre case, fino al nostro apparato in casa, sì, o la nostra televisione. E poi nella parte di trasporto, cioè dove in una grande rete di telecomunicazione bisogna spostare invece immense quantità di dati che hanno a che fare con il traffico complessivo che viaggia sulla rete. Diciamo che in questa parte quasi ormai è tutto fibra ottica. In questa parte, seconda parte, è quasi tutto fibra ottica, sì, mentre nella prima c'è una componente mista, può essere una parte. In Italia c'è ancora tanto rame, per esempio. Esatto, però che cosa sta succedendo? Allora, chiaramente uno degli obiettivi, uno anche per alcuni un po' un sogno, è quello di arrivare ad un certo punto, chissà quando, a coprire tutto il territorio, tutte le case, tutti gli uffici, tutte le aziende. E poi ancora di più, perché se parliamo di Internet of Things, quindi della Internet degli oggetti, dovremmo collegare altro che le case e gli uffici in fibra ottica. Ecco, nel frattempo cosa succede? Visto che voi siete protagonisti di questo passaggio anche con una serie di macchine, con una parte dell'infrastruttura. Sì, è quello che succede, è che esistono soluzioni che ci portano vicini a quel traguardo. Non c'è alcun dubbio da parte di, credo, nessuno, è che la soluzione finale di avere fibra ottica ovunque, fino a qualunque casa anche o azienda, anche la più periferica o che sia in alta montagna, eccetera. È ovvio che non è, da un punto di vista di costi, perseguibile con una rapidità istantanea, bisogna arrivarci per gradi. E ci sono delle nuove tecnologie che consentono di spostare la fibra un po' più vicino alle case e alle aziende, mantenendo l'ultimo tratto di collegamento sul doppino in rame, che è la classica rete di telecomunicazione di tanti anni fa, ma che ancora funziona bene, e con nuove tecnologie le velocità di trasmissione anche su quest'ultimo tratto possono essere aumentate molto. Anche in futuro, prossimo anno, direi si arriverà anche a superare i 100 megabit al secondo, pur mantenendo non l'ultima tratta appunto in rame. A proposito di, visto che poi queste cose vanno costruite, vanno portate sul territorio con investimenti privati e o pubblici a vari gradi, noi commentiamo sempre il dibattito che c'è in atto, le notizie che nascono dai vari operatori, dal governo. C'è, dico io, un po' di lentezza nel posare fibra e o fare un upgrade delle reti. Che cosa vedete voi invece? Ma sicuramente c'è una componente pubblica e una privata. Sì. Quindi, distinguendo tra le due, direi che gli operatori privati nel corso degli anni e tutt'oggi hanno fatto la loro parte. Ovviamente all'interno di quelle che sono dinamiche di mercato, quindi laddove hanno visto la necessità per competere di investire, hanno investito; laddove non l'hanno avvertita, non lo hanno fatto. Credo che sia poi fondamentale anche la componente pubblica, perché poi questa è un'infrastruttura critica per tutto il paese, importante per lo sviluppo dell'economia in generale. Ci sono tantissimi studi, come sappiamo, che spiegano come una rete performante, veloce, di qualità in un paese come l'Italia può portare anche ad un incremento di PIL, a un incremento di produttività, a un incremento anche della qualità di vita dei cittadini. E quindi a quel punto è importante che ci sia anche un disegno, credo, complessivo, pubblico. Ecco, su questo forse negli anni passati sono state fatte molte discussioni, molti convegni, anche se vogliamo, e c'è stata molto meno attuazione. Adesso è stato proprio in agosto, no? Qualche settimana fa è stato annunciato dal governo un certo contributo di alcuni miliardi, quindi un piano che dovrebbe andare nella direzione giusta, però è importante metterlo in atto, perché diciamo il diavolo è nei dettagli, sì. Quindi bisogna poi andare a concretizzare. Sì, questo è importante, quindi anche voi, questo è un punto di vista sicuramente autorevole, è importante, supportato da studi, dite i privati possono fare solo una fetta della torta. Complessivamente l'intervento del pubblico è importante, anzi è necessario. Soprattutto nelle aree più periferiche del paese. È ovvio che a Milano le reti vengono fatte dai privati, e anzi ci sono reti in concorrenza sempre di più, quindi ciascuno di noi a Milano o in altre grandi città può scegliere, e anche la qualità migliora con il ritmo, secondo me, giusto. L'intervento pubblico deve essere nella periferia del paese. Sì, secondo voi i privati stanno investendo a sufficienza oggi, o dovrebbero anche loro dare un po' un'accelerata? Ma io credo, in Italia è stato fatto un ottimo investimento, anche rapido, nelle reti mobili, soprattutto quelle 4G LTE, negli anni passati, cioè negli ultimi 3 anni, diciamo. Infatti sulla parte di reti mobili, soprattutto di nuova generazione, non abbiamo non siamo arretrati, non abbiamo un gap rispetto agli altri paesi europei, anzi. E poi più recentemente, questo veramente negli ultimi direi 12-18 mesi, c'è stata un'accelerazione anche nello sviluppo delle reti fisse a banda ultralarga, quindi quelle che portano la fibra più vicino a casa, da parte dei vari operatori. Questo è sicuramente positivo, però è all'inizio ed è un recupero molto parziale di un ritardo importante che il paese accumula invece da tanti anni. Sì, perché le classifiche ci dicono che siamo ancora molto indietro. Purtroppo su questi aspetti possiamo leggerne diverse classifiche, ma se non siamo ultimi, siamo penultimi o nelle ultime posizioni in Europa. Scontiamo un ritardo importante, un ritardo che poi origina molto dal fatto che non c'è mai stata una televisione via cavo in Italia, quindi il paese non è stato cablato come altri paesi europei per portare la televisione in senso classico, diciamo, negli anni passati. E quindi adesso, infatti, se uno guarda i numeri europei, il 40% delle connessioni a banda ultralarga, quindi veloci, super veloci, in media in Europa è fatto dalla TV via cavo, che in Italia è zero. Sì. Quindi noi con le altre sfruttando quei cavi sì. Quindi le altre tecnologie, noi dobbiamo partire da zero da quel punto di vista, o meglio siamo già partiti, ma siamo partiti da una posizione più arretrata, diciamo. Faccio una domanda che mi verrebbe da commerciante. All'interno di questa dinamica, l'abbassamento eventuale dei prezzi delle infrastrutture che voi vendete potrebbe accelerare gli investimenti degli operatori? Cioè, se costassero meno, non so quali possono essere le dinamiche, gli intervalli e l'elasticità del prezzo, ma se costassero meno le infrastrutture che portano la rete in giro per il paese, potrebbero gli investimenti aumentare di molto? Ma qui c'è da dire due cose importanti. Nel fare una rete di telecomunicazione, soprattutto una rete in fibra ottica capillare, l'investimento più grosso è quello degli scavi, o comunque quello dei lavori, non quello delle tecnologie intelligenti che sono quelle che noi produciamo. Quindi si può recuperare poco. Quindi sull'investimento complessivo che uno deve fare si può recuperare poco. E comunque sulle apparecchiature, quelle intelligenti invece che facciamo noi, bisogna portare sempre più dati, perché poi tutti noi facciamo esplodere il traffico, consumiamo sempre più video, sempre più dati, e quindi bisogna far diminuire soprattutto quello che è il cost per bit trasportato. Sì. Risulta anche a voi che all'utente medio più banda tu dai, più lui la usa? Sì, assolutamente. Infatti spesso si dice ma non c'è la domanda, ma questo è un classico falso problema, perché almeno nel medio termine, non nell'immediato ovviamente, ma sì, con un'ottica di medio-lungo termine, se c'è l'offerta e se c'è la qualità dell'offerta in questo tipo, l'abbiamo visto in tanti sviluppi dell'umanità, diciamo più in generale, sì, c'è la risposta anche. Sì. Una cosa che si dice spesso, non solo nel vostro settore ma in tanti altri settori, ci si sta sempre più spostando verso i servizi. Che cosa significa questo per chi progetta, produce e poi installa apparati di rete, che sono pezzi di ferro, adesso senza offesa, no? È hardware e anche software, ecco. Quindi c'è tanta... Però che cosa significa che la dinamica del mercato si sta sempre più spostando verso i servizi per voi? Ma noi in realtà abbiamo deciso di focalizzarci molto sulla ricerca e sviluppo, e quindi sul software e l'hardware. Ribadisco l'importanza del software nell'intelligenza delle reti che noi produciamo e realizziamo, però indubbiamente insieme a questa intelligenza c'è anche una parte di supporto. Questo è perché ognuno, anche con l'aumentare della concorrenza e una globalizzazione sempre più spinta, un consolidamento del mercato, ognuno deve fare meglio il mestiere che sa fare meglio. Quindi gli operatori di telecomunicazione, chi porta il servizio, si concentra sul, appunto, rendere il servizio migliore, più accattivante, e nel proporlo ai propri clienti o alle aziende. Mentre invece la parte di gestione delle reti, di manutenzione, di messa in opera, è invece la competenza di gruppi come il nostro. Voi, diciamo, dal prossimo anno diventerete un'altra azienda, perché vi fonderete con Nokia. Si è detto spesso che le due aziende sono perfettamente complementari. Cosa significa? Sì, noi abbiamo annunciato e avviato questo grande progetto, che ha come poi obiettivo principale quello di creare il leader globale delle reti di telecomunicazioni, leader europeo in questo caso. Quindi credo che sia una bella sfida anche per tutti, sì, noi come europei, di poter assistere alla creazione di un tale grande gruppo che ha base appunto in Europa. E siamo complementari perché Alcatel-Lucent tradizionalmente, soprattutto negli ultimi anni, è il leader assoluto nelle tecnologie appunto di a banda ultralarga, nelle tecnologie di trasporto, quelle che facciamo anche in Italia, bimercate, nelle tecnologie IP per le reti, quindi nei routers e negli switch che servono a far funzionare bene una rete, mentre Nokia si è focalizzata molto negli ultimi anni nelle reti mobili, e quindi nelle reti per esempio LTE, sì, ed è un'unione quindi molto complementare. È anche importante, se guardiamo poi il lungo termine, perché poi ci sarà sempre meno differenza tra questi due mondi, Si parla già di future generazioni, che non saranno più solo generazioni mobili, ma sarà quello che lei prima citava come Internet of Things, sarà un far funzionare reti complesse, ma non solo per noi persone, ma per il mondo industriale, per le smart cities del futuro. Sì, sì, oggi di fatto via. Le reti mobili servono per alimentare gli smartphone, per collegare gli smartphone. Io non so quanti anni ci vorranno, gli smartphone diventeranno la minor parte degli oggetti che saranno connessi alla rete wireless. Per far questo voi già oggi state, non so se le avete già costruite, però sicuramente state progettando l'ormai famoso 5G, visto che oggi 4G è diventata quasi la normalità, perché appunto molti dei nostri ascoltatori si connettono già oggi alle reti 4G. Quanto tempo ci vorrà per arrivare al 5? Ma diciamo che le reti verranno lanciate nel 2020, quindi non manca così tanto, perché da qui ad allora ci sono da fare tantissime cose. Noi abbiamo già iniziato ovviamente da tempo la ricerca su questi temi, bisogna standardizzare, quindi tutte insieme l'industria. Sì, non è ancora uno standard. Non è ancora uno standard, ma lo sta diventando e lo diventerà nei prossimi anni. Bisogna sperimentare e comunque, per dare qualche dato, si parlerà di velocità di picco che saranno di 100 volte maggiori di quelle delle reti 4G di oggi, quindi di 10 gigabit al secondo, ma si parla soprattutto di enormi quantità di dati proprio per gestire l'Internet of Things, quindi 10 terabit, scusate i tecnicismi, per chilometro quadrato, che è 1000 volte quello che offrono le reti di oggi 4G più recenti. E ci sarà un numero di devices, quindi di oggetti connessi, che potrà arrivare fino a 1 milione per chilometro quadrato. E una latenza, quindi un tempo di risposta della rete enormemente molto basso. Molto basso, 5 millisecondi per esempio. Che quasi che un umano non riesce a comprendere. Che però per applicazioni industriali sarà molto importante. Ah, certo. E anche finanziarie, per esempio se pensiamo a applicazioni del mondo finanziario, dove quando si va in borsa o si gioca o si lavora nelle banche, nel mondo finanziario, i tempi di risposta devono essere veramente rapidi. Tornando al mondo di oggi, una cosa che ogni tanto mi sento dire dagli ascoltatori è: ma perché non facciamo tutto con le reti mobili? Visto che già oggi le reti mobili in molti, molti casi vanno velocissime, molto più veloce della nostra DSL di casa magari. Si può fare questa cosa? Io sono un grande fautore del cavo, però capisco che c'è spazio, ci deve essere anche il innanzitutto, diciamo che si può fare sempre di più con solo le reti mobili e poi anche che questo concetto, in realtà le reti sono sempre di più un tutt'uno, per cui una rete mobile, cioè quello che noi avvertiamo come mobile, cioè l'ultima parte che è in aria, in realtà dietro ha tutta una rete fissa per poter funzionare, trasportare i dati ed essere performante. Comunque ci sono anche tante applicazioni che noi chiamiamo spesso mission critical, che quindi devono essere garantite al 100%, che una rete mobile ancora non può garantire per definizione. E quindi dipende molto dall'uso che si deve fare della rete e dal tipo di garanzia che si vuole dare al servizio. Quindi non c'è una risposta sì no? No, la risposta è complessa e dipende dal caso e dal servizio che si vuole. Comunque bisogna mettere fibra in giro per alimentare anche le reti mobili. Lo accennavo, quindi la fibra deve comunque arrivare. Sì. Poi si può fare un pezzetto alla fine in aria, ma la fibra dovrà arrivare sempre più vicina. E infatti si parla di reti mobili adesso che stiamo costruendo sempre di più con small cell, quindi con celle molto piccole, molto pervasive, soprattutto nelle città, però poi in quelle piccole celle deve arrivare una fibra ottica e questa è la vera sfida, diciamo. Sì. Quando lei parla con i suoi colleghi europei, limitiamoci all'Europa, non voglio andare a fare confronti con Asia, Stati Uniti, che a volte sono anche sorprendenti, perché uno crede che gli Stati Uniti siano là in alto, ma in realtà non è così. Dove facciamo proprio brutta figura? Parlando di reti mobili fisse, uso anche che facciamo di questi strumenti. Ma l'abbiamo accennato prima, nelle classifiche europee in generale delle reti e poi se vogliamo anche nel concetto più ampio del mondo digitale, siamo indietro in Europa. Siamo indietro, nelle reti mobili però siamo messi molto meglio. abbiamo sia una connettività, quindi delle reti, sia un utilizzo delle reti mobili leggermente superiore alla media europea. Certo, ci sono paesi che, soprattutto nelle reti a banda ultralarga, come UK, Germania e anche Francia, sono più avanti. Sì. Un'ultima domanda riguarda gli investimenti che gli operatori stanno facendo. Lei ci conferma che stanno aumentando? Ma noi in Italia stiamo andando molto bene, grazie proprio a un rilancio degli investimenti, soprattutto sulle reti a banda ultralarga. Quest'anno cresceremo più del 20% il nostro fatturato in Italia, grazie a una ripresa degli investimenti dei principali operatori nelle reti a banda ultralarga. Quindi sì, direi che una ripresa c'è, non c'è da molto tempo, quindi non è ancora consolidata, però esiste e speriamo sia complementata presto da un reale piano, diciamo anche pubblico, che serve ad estendere in tutta Italia. Per aumentare ancora di più questi investimenti. Certo. Per aumentare questi investimenti, sì. e per non creare un digital divide di banda ultralarga, sì, tra le città e le periferie. Sì, sì. E in tutto ciò immagino che gli annunci di operatori televisivi via cavo che stanno arrivando un pochettino contino. Assolutamente, se Netflix barca in Italia, come ormai è prossimo, chi deve portare quei contenuti, sì, a casa di ciascuno di noi deve attrezzarsi perché siano portati con qualità e con sempre maggiore performance. Quindi quello è un esempio, ma ne esistono altri, cioè non c'è dubbio che infatti l'esplosione del traffico, e soprattutto traffico video, e lo sarà sempre di più, circa il 60% del traffico cosiddetto dati, internet diciamo, è traffico video sin d'oggi, sì, oggi, ed è destinato anche ad aumentare. Sì. Come dicevano, video kill the radio star. Yes. Beh, così. Grazie a Roberto Loyola per essere stato con noi, buon lavoro, a presto. Grazie a voi, arrivederci. E così concludiamo questa puntata di 2024. Come sempre, grazie per la vostra attenzione, grazie per aver scaricato questa puntata, o magari la state ascoltando in streaming, poco importa. Fate pubblicità al podcast, perché è un buon modo per ascoltare la radio, ma soprattutto è un buon modo per ascoltare e approfondire questo tipo di contenuti. Ne abbiamo bisogno, come dicevo, a tutti i livelli, politico, a livello industriale, ma a livello di cittadini, di singoli cittadini, che dobbiamo imparare a utilizzare maggiormente la tecnologia che abbiamo a disposizione. Ci risentiamo la prossima settimana, vi ricordo l'orario di 2024 non cambia, 22 del venerdì sera alle 13.30 della domenica. Ci siamo spostati leggermente la domenica, ma insomma poco cambia. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Ci trovate anche su Facebook e su Twitter, e come sempre, come facevo nella passata stagione, continuo ad invitarvi a scriverci per raccontarci come ascoltate 2024, o meglio, durante quale attività ascoltate 2024. Direi che primi in classifica sono quelli che fanno sport mentre corrono, poi ci sono anche altre tipologie di sport. Ci risentiamo la prossima settimana. 2024. 3, 1 second, and we're on.